Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Rivisto a ribasso il PIL del 2015, la crescita non è stata dello 0,8% ma dello 0,7%. Renzi sulla manovra. Nel 2017 sarà prorogato l'ecobonus al 65% per le ristrutturazioni. Un mese fa il terremoto, danni per circa 4 miliardi di euro, ricostruzione trasparente e senza deroghe, promette il governo. Dopo il no alle Olimpiadi, l'attenzione della Giunta Raggi si sposta anche sullo stadio della Roma, continua la ricerca dell'assessore al bilancio. Il caso di Yahoo, dopo il furto ai dati di 500 milioni di identità digitali, secondo alcuni esperti ci sarebbe ancora una volta la mano russa, FBI smentisce. Verso la riforma della toponomastica in Alto Adige, 1500 nomi italiani di luoghi e strade potrebbero sparire in favore della denominazione tedesca. Un nuovo caso di superpreside dopo quello ligure che vi abbiamo raccontato qua ad Effetto Giorno, è a Milano e dirige 21 scuole per 3000 alunni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e buon venerdì a tutti. In apertura parliamo dei conti del 2015 rivisti oggi dall'Istat. Nel 2015 il PIL italiano è cresciuto dello 0,7% e non dello 0,8% stimato a marzo, ma l'anno chiave è il 2014. Secondo l'Istat, che ha rivisto i conti, due anni fa il prodotto interno lordo non è sceso, come stimato in precedenza, ma è salito dello 0,1%. Una revisione importante perché anticipa il punto di svolta che ha visto uscire l'Italia dalla recessione, sottolinea il presidente dell'Istituto di Statistica, Levi, anche se è presto per capire se la correzione avrà effetti di trascinamento sul 2016. Plaude il Ministero dell'Economia. Il primo anno di ripresa coincide con l'insediamento di questo governo. Ciò significa che le politiche di sostegno della domanda hanno avuto un impatto già nel primo anno, scrive il MEF. La ripresa non è soddisfacente, ma la crescita è tornata già da 3 anni. L'ultimo periodo di recessione, dunque, per l'Italia è durato 2 anni, 2012-2013, e non 3. Resta da capire quali saranno le previsioni del governo per quest'anno, attese la prossima settimana con la nota di aggiornamento del DEF. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torna in contrazione il PIL della Francia. Nel secondo trimestre si è registrato un ribasso dello 0,1% dopo il più 0,7% del primo trimestre. È la lettura finale ed è peggiore delle attese degli economisti che avevano preventivato una variazione nulla. La manovra e la flessibilità intanto sono al centro della scena. La misura fiscale che consente di intervenire nelle case per l'adeguamento, il miglioramento dell'adeguamento sismico, oltre che per l'efficientamento energetico, sarà prorogata. Quindi chi può ed è nelle condizioni avrà uno sconto del 65%, lo avrà anche nel 2017. Confermato l'ecobonus anche per il 2017, giù l'IRES, giù l'IRI, confermati tutti gli impegni, dagli 80 euro per le famiglie alle forze dell'ordine, l'impegno sulla tassa sulla prima casa e ne arriva anche un super ammortamento fiscale che mette soldi per creare occupazione, prima a 8,5, poi oggi di nuovo in occasione della conferenza stampa a Palazzo Chigi con il commissario per la ricostruzione Errani, Matteo Renzi ribadisce gli impegni sulla manovra, ma intanto continua il negoziato del governo italiano per ottenere più margine di manovra a Bruxelles e lasciare aumentato il deficit più del previsto, un negoziato che non sarà facile. Dopo le parole fredde di ieri del presidente della commissione Juncker, il quale ha detto che l'Italia ha già ricevuto 19 miliardi di euro di flessibilità sui conti, il patto di stabilità non è un patto di flessibilità. Rispetteremo le regole, dice dal canto suo Renzi, ma intanto assicura le spese per i migranti e quelle legate al terremoto resteranno fuori. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E quindi veniamo proprio al terremoto, perché oggi il governo ha fatto un punto anche sui soldi che serviranno. Si abbassano i riflettori, ma ciò non toglie nulla al dolore per la catastrofe e al nostro dovere di farci carico della ricostruzione. Così il premier Matteo Renzi a un mese dal sisma che ha sconvolto il centro Italia. Ne usciamo solo se c'è uno spirito forte di comunità. Finita la fase di emergenza, il governo è dunque alle prese con quella della ricostruzione. Il commissario straordinario Errani propone un modello che rispetti le specificità dei territori montani colpiti, dunque un'esperienza diversa da quella emiliana. Vogliamo ricostruire tutto rispettando l'identità e le comunità e i luoghi, riattivando subito l'economia e il lavoro, perché il nostro primo problema è sì ricostruire tutto, ma allo stesso tempo, quando avremo ricostruito, vogliamo che le persone ci siano e abbiano una prospettiva futura. Il decreto, che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 3 ottobre, insiste sui meccanismi chiari del riconoscimento dei danni, sulla riattivazione economica e su legalità e trasparenza per bloccare sul nascere eventuali infiltrazioni mafiose. Infine, l'invito di Renzi agli amministratori locali a proporre al governo interventi di miglioramento sismico, specie sugli edifici scolastici. Chiara Piselli, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Il no alle Olimpiadi, ma anche lo stadio della Roma che promette di essere la nuova partita e soprattutto la ricerca dell'assessore al bilancio. Ovviamente parliamo della giunta della capitale. La vicenda è chiusa, non si possono fare le Olimpiadi contro la città che dovrebbe ospitarle, a dirlo è il premier Renzi, secondo il quale con la decisione della sindaca Raggi di ritirare la candidatura di Roma, il Movimento 5 Stelle ha ammesso di non essere in grado di cambiare le cose. Sulla stessa linea è anche il presidente del CONI Malagò, che boccia l'ipotesi di un piano B, cioè quella di continuare a portare avanti la candidatura senza il sostegno dell'amministrazione comunale, come è accaduto in passato in altre città straniere. Dopo il no ai giochi e in attesa di sciogliere il nodo dello stadio della Roma, la sindaca Raggi intanto si appresta a nominare i nuovi assessori al bilancio e alle partecipate. L'annuncio potrebbe arrivare oggi oppure dal palco della kermesse nazionale del Movimento 5 Stelle, in programma nel fine settimana a Palermo. Per il bilancio il nome che circola è quello di Salvatore Tutino, ex giudice della Corte dei Conti in pensione, che però in passato era stato criticato da esponenti del Movimento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto sembra prospettarsi un fronte piuttosto particolare sulla legge elettorale, un fronte che tiene insieme Berlusconi e lo stesso Movimento 5 Stelle. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così una prima tappa intanto che permetterà di ritarare l'agenda politica attesa per il prossimo lunedì, quando il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere tra le altre cose la data proprio del referendum. L'arco temporale è già noto, tra il 27 novembre e il 4 dicembre, pochi giorni di differenza, ma a questi sono legati non solo il futuro del governo Renzi ma anche la decisione della consulta, Simone, proprio sull'Italicum, Italicum che negli ultimi giorni ha rivisto il dibattito tornare alla Camera con le motivazioni di maggioranza ed opposizione, mentre è caduto anche l'ultimo muro, ovvero quello del no di Renzi, che anche ieri ha ripetuto di essere disponibile al cambiamento purché si trovi una maggioranza in Parlamento. E allora, a sorpresa, tra Camera e Senato potrebbe esservi una convergenza tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia. I grillini hanno rilanciato, lo ricordiamo, un sistema proporzionale con le preferenze, un'ipotesi da approfondire l'ha giudicata Berlusconi davanti al comitato di presidenza del suo partito. Un progetto questo che potrebbe coinvolgere anche la minoranza del PD e i centristi di Area Popolare, che gradirebbero sicuramente il ritorno del proporzionale associato magari ad un premio di maggioranza alla coalizione invece che alla lista. È tutto, linea allo studio. E grazie anche a te, Vincenzo Miglietta, per questo aggiornamento. Veniamo alla vicenda del furto di password e dati di Yahoo. Nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita e password di 500 milioni di utenti. Questo il bottino del più grande furto informatico della storia ai danni degli utenti di Yahoo. Chi pensa che email e password non siano un guadagno allettante per i ladri digitali si sbaglia. Qualsiasi tipo di informazione può essere rubata e venduta sul dark web, la parte criminale della rete, dai voucher per i voli ai jackpot dei giochi online. Yahoo fa sapere che tra i dati violati non ci sarebbero numeri di carte di credito, ma invita comunque gli utenti a controllare i propri account e modificare la password di accesso. Niente marcia indietro per l'acquisizione da parte di Verizon, ma il colosso del wireless potrebbe ritrattare sul prezzo. Il fatto più grave, però, secondo quanto diffuso da Yahoo, sarebbe la possibile complicità all'operazione da parte di uno stato straniero non meglio precisato. E vittima di hacker stranieri è anche Michelle Obama. Un'immagine del suo passaporto è finita online insieme alle mail personali di alcuni dipendenti della Casa Bianca. Probabilmente il responsabile è il gruppo di hacker russi DC Leaks. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo negli Stati Uniti, un morto negli scontri a Charlotte, un altro nero ucciso dalla polizia a Baltimora. Il coprifuoco non è stato rispettato, ma è andata bene confronto alle precedenti, la terza notte di proteste in North Carolina per l'uccisione da parte della polizia del 43enne afroamericano Keith Lamont Scott. Ci sono stati cortei, lacrimogeni, due agenti feriti, ma la sera prima la protesta era sfociata nella morte di un manifestante, il ferimento di 13 persone, l'arresto di altre 40. I manifestanti chiedono a gran voce che sia reso pubblico il video in cui è registrato il confronto tra la vittima e la polizia. Immagini che il sindaco della città ha definito ambigue e che il capo della polizia ha già rifiutato di mostrare al pubblico per non mettere a rischio le indagini, ha detto. Intanto, più a nord, a Middle River, contea di Baltimora, è morto un altro afroamericano, 21enne, ferito in un conflitto a fuoco con la polizia, mentre a Tulsa, Oklahoma, una poliziotta è accusata di omicidio colposo di primo grado per aver sparato e ucciso un 40enne afroamericano disarmato durante un controllo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Siria. Allahu Akbar. Passa per Qanab il fosforie. Che Dio ci protegga, sono bombe al fosforo, dice una voce fuori campo, mentre al centro dell'immagine si vede un'esplosione luminosa il cui riverbero continua a lungo. Sono video amatoriali diffusi da BBC che raccontano cosa si vive in queste ore ad Aleppo, bombardata ieri con oltre 200 raid, ripresi poi all'alba di oggi da truppe governative russe che si stanno concentrando sulla parte orientale della città, quella controllata dagli insorti e assediata dalle forze lealiste. Una guerra che prosegue mentre a New York si tenta di ristabilire una tregua. A farlo il segretario di Stato americano John Kerry all'assemblea del Consiglio di sicurezza dell'ONU, chiedendo che tutti gli aerei restino a terra nelle aree chiave della Siria per ridare, dice, credibilità a questo processo di pace. Sul tavolo della diplomazia i dati degli ultimi due anni di conflitto: più di 6.000 persone, in larga parte miliziani dell'ISIS, uccise in due anni di raid dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti. Circa 600 sono civili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi ricorrono i 100 anni dalla nascita di Aldo Moro. L'analisi di Daniele Biacchesi è oggi dedicata proprio a questo. Governare significa fare tante singole cose importanti e attese, ma nel profondo vuol dire promuovere una nuova condizione umana. Di questa nuova condizione umana Aldo Moro parlava già nel lontano 1973, nella sua relazione al 12° congresso della DC a Roma. Oggi, esattamente nel 100° anniversario della sua nascita a Maglie, in Puglia, queste sue parole restano le tracce più forti del suo pensiero politico, ancora moderno e avanzato nonostante la forza del tempo. Bisogna guardare al nucleo essenziale di verità, al modo di essere della nostra società, che preannuncia soprattutto una nuova persona più ricca di vita e più consapevole dei propri diritti. Diceva Moro nei mesi in cui avviava la strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, del compromesso storico, negli anni delle lotte operaie e dell'austerity, della crisi economica e del terrorismo. Il dilemma di Aldo Moro era tutto racchiuso in alcune domande forti. Come conciliare l'estrema mobilità delle trasformazioni sociali con la continuità delle strutture rappresentative? Come integrare nello Stato masse sempre più estese di cittadini senza cedere a seduzioni autoritarie? Come crescere senza morire? Non ci sono state risposte a quelle domande. Il 16 marzo 1978 un comando delle Brigate Rosse fermò le macchine del suo convoglio in via Fani, a Roma, sottraendogli la libertà dopo aver ucciso gli uomini della sua scorta. E il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di calvario, le sue idee di cambiamento si bloccarono per sempre dentro una Renault rossa, ritrovata in via Caetani, a Roma, tra la sede della DC in Piazza del Gesù e quella del PC in Via delle Botteghe Oscure. E parliamo adesso di un'altra persona nata il 23 settembre, un ricordo più allegro se vogliamo, è quello di Pablito, di Paolo Rossi. Fuoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato. La notte del Bernabeu, il presidente Pertini che fa festa in tribuna, le mani di Zoff sulla Coppa del Mondo, la gioia di Enzo Bearzot e i tricolori che sventolano per le strade di tutta Italia. Che follia quel luglio del 1982. L'Italia campione del mondo per la terza volta, partita senza alcun credito e alla fine campione dopo aver battuto Argentina, Brasile, Polonia e la Germania Ovest per 3-1 in finale. E al centro di tutto tutto lui, Paolo Rossi, un ragazzo di Prato, classe 56, che di quel mondiale non sarà solo il capocannoniere, ma il mito, finora e per sempre. Ebbene, proprio oggi Pablito festeggia i suoi primi 60 anni, che sono suoi come di tutti noi, come i primi gol col Vicenza, l'amicizia con Berzotto, le prodezze in Argentina nel 78, la squalifica per il calcio scommesse e la resurrezione a Spagna 82, con l'epica tripletta al Brasile, fino al tramonto messicano dopo l'amara notte dell'Aizel. Oggi Rossi è tutto questo, ma anche molto altro. Produttore di vino, proprietario di un agriturismo, protagonista di una mostra e presto anche di un film. Ma come allora e ancora oggi, è soprattutto l'emblema di ciò che spesso dimentichiamo di essere noi italiani. Gente normale, ma capace di guizzi, di genialità e talento, sempre pronti a risorgere per arrivare a realizzare un sogno. Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domenica Paolo Rossi sarà ospite di una puntata speciale proprio del nostro Dario Ricci, di Olimpia, miti e verità dello sport, domenica appunto a partire dalle 20:30, e quindi sintonizzatevi e andatevi a sentire questa intervista o eventualmente scaricatevela dopo in podcast. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Lo inizieremo dall'Alto Adige, dove in queste ore in corso una querela tra maggioranza e opposizione perché si vuole cambiare la toponomastica, ossia i nomi dei luoghi e magari anche di alcune strade, e si vuole mettere per 1500 luoghi il nome solamente tedesco, escludendo completamente quello italiano. Ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della revisione a ribasso del PIL per il 2015, una crescita dello 0,7% contro lo 0,8% previsto precedentemente. Abbiamo parlato anche delle dichiarazioni di Renzi sulla manovra, abbiamo parlato del terremoto, si parla di danni per circa 4 miliardi di euro, abbiamo parlato della giunta Raggi a Roma, ancora alla ricerca dell'assessore al bilancio, abbiamo parlato del furto di identità digitali avvenuto nei confronti di Yahoo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Bolzano, iniziamo dall'Alto Adige, perché c'è una storia che ci ha incuriosito. Queste sono vicende, bisogna dire la verità, che per l'Alto Adige sono, per così dire, forse parola non è più azzeccata, carsiche, nel senso che montano e rimontano ogni volta. Nella fattispecie si parla della toponomastica, ossia dei nomi dei luoghi, in tedesco o in italiano o in tutte e due le lingue. Ebbene, a quanto pare, secondo quanto denuncia Alessandro Urzì, che è consigliere della provincia autonoma di Bolzano e membro del gruppo consiliare L'Alto Adige nel cuore, un gruppo di centrodestra, a quanto pare la giunta si preparerebbe a cancellare il 57% dei nomi italiani presenti in Alto Adige. Urzì, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, buongiorno. Allora, tra l'altro, senta una cosa, su questo tema abbiamo letto che Compacere, il presidente della provincia, ha detto che lei deve star zitto, non deve parlare nemmeno con i giornalisti. L'ha capito, quindi non dovrei parlare con lei perché altrimenti rischio addirittura la denuncia penale per sa per quale motivo, per la violazione del segreto d'ufficio, quasi che la regolamentazione, diciamo così, dell'uso dei nomi dei luoghi fosse un segreto d'ufficio da regolare fra pochi intimi, tanto è vero che oggi si riunisce la commissione dei sei, che si chiama dei sei perché è composta da sei persone nominate, una parte dal governo, quindi espressione del PD, dall'altra parte dalla provincia, quindi espressione della Volkspartei che appoggia il governo, quasi che questi sei dovessero decidere e potessero decidere da soli senza consultare tutto il resto della popolazione. Stiamo parlando di un patrimonio di tutti. Quindi, allora, mi faccia capire, di fatto 1500 nomi rischiano, che adesso sono italiani o hanno il doppio nome naturalmente, no? Come forse anche corretto, no? Hanno il nome italiano e il nome tedesco, rischia di sparire la denominazione italiana, ho capito bene? Sì, ci deve spaventare ancora di più, a me spaventa perlomeno, perché non sono solo e non saranno solo 1500 i nomi sotto la lente, ma tutto il patrimonio della denominazione dei luoghi in provincia di Bolzano, che è molto più ampio. I nuovi italiani oggi ufficiali per legge, c'è già una legge che li disciplina, sono 8.000. Allora si tratta di capire fino a quanto si vorrà cancellare. Lei capisce che non ha senso in un luogo come quello della provincia autonoma di Bolzano, che vive del valore del bilinguismo, che è uno degli aspetti costituenti del nostro sistema dell'autonomia, del riconoscimento dei diritti dei diversi gruppi linguistici, che un gruppo linguistico debba vedersi sottrarre una parte della propria identità. Peraltro quel gruppo, il gruppo italiano, che parla la lingua nazionale. Quindi la sintesi qual è? Che rischierebbe di essere cancellato l'uso ufficiale della lingua italiana su una parte, una porzione del territorio nazionale. La regola, non ho capito, Urzì, che cosa prevede? Chi la decide questa cosa qua? Questo comitato dei sei? Come è organizzata la cosa? Molto complesso, in estrema sintesi. Oggi si riunisce la commissione paritetica dei sei, governo-provincia, che dovrebbe dettare una serie di regole che dovrebbero essere attuate attraverso legge della provincia autonoma di Bolzano. Faccia conto che in consiglio su 35 consiglieri sono solo 5 del gruppo linguistico italiano, quindi immagini che rapporti di forza possono esserci, e quindi si può anche prefigurare l'esito di questo percorso. E si è un po' delineato il concetto per cui dovrebbe essere una commissione mista composta di 2 italiani e 2 tedeschi a poter decidere sui nomi, ma alla fine 2 italiani più anche solo un tedesco, quindi a maggioranza il gruppo linguistico tedesco potrebbe decidere sul futuro delle denominazioni in lingua italiana. Ecco, io credo che un'ipotesi di cancellazione di un patrimonio vivo, autentico, genuino, utilizzato da generazioni di cittadini della nostra provincia e di tutta Italia non possa essere cancellato con un colpo di pugna. Ci fa qualche esempio di che cosa potrebbe essere cancellato, Urzì? C'è qualche nome anche noto ai molti turisti che frequentano la vostra provincia che possiamo far capire per dare un'idea, no? Perché poi magari l'anno prossimo arrivano, vanno a cercare quel posto e non lo trovano più perché lo trovano scritto in tedesco. Beh, dice bene innanzitutto, se mi permette, il fatto che ci si rivolge anche ai turisti, cioè ai cittadini d'Italia che vivono in ogni parte d'Italia, cioè l'Alto Adige non è proprietà degli altoatesini, è proprietà di tutto il paese. Quindi è evidente che quando parliamo di toponomastica parliamo di un patrimonio che vale per tutti. Quanti hanno trascorso le ferie in Alto Adige, come giustamente dice lei, potrebbero tornare la prossima estate e non trovare più i sentieri indicati con i nomi che avevano conosciuto in 20-30 anni, che ne so io, di soggiorno in Alto Adige. Gli esempi, beh, ce n'è uno notissimo, l'abbiamo studiato tutti a scuola, noi dall'Alto Adige, ma anche tutti gli altri cittadini d'Italia. La Vetta d'Italia, bene, è contestato, non si vuole più che si chiami Vetta d'Italia, sa come si dovrebbe chiamare? Glockenkarkhof. Adesso io la sfido a ripeta Glockenkarkhof. Ecco, è Glockenkarkhof. Beh, giusto? Devo dire che ha superato la sfida e mi complimento con lei, però indubbiamente ha una grossa capacità di adattamento. Però c'è una questione molto più seria invece, che è quella del rispetto di un'identità. Se questa denominazione da 100 anni è utilizzata come patrimonio comune da generazioni di cittadini che sono cresciuti in questa terra e che hanno frequentato l'Alto Adige da tutta Italia, non si comprende la ragione per cui una parte viva appunto di un'identità linguistica fondamentale dell'Alto Adige, quella italiana, debba essere cancellata. Un altro esempio, solo Uxenalm invece dell'Alpe dei Buoi, piuttosto che la Schlanderersalm invece che l'Alpe di Silandro. E gli esempi potrebbero essere centinaia, certo, perché parliamo appunto di 1500 nomi. Sa che adesso, finita l'intervista, io prendo, faccio un MP3, lo invio a Compacer, così la denuncia. Mi faccio volentieri denunciare in questo caso, lo faccia, è una sfida, volentieri la raccolgo, perché così andremo di fronte a un tribunale che dovrà decidere se appunto i toponimi, i luoghi che noi frequentiamo, che abbiamo conosciuto nelle nostre gite quando eravamo bambini con le nostre famiglie, siamo andati a fare la colazione nel prato, piuttosto che qualunque altro luogo che abbiamo frequentato, che abbiamo conosciuto per sempre nella nostra intera vita con un nome, abbia diritto o meno di essere cancellato nel segreto delle stanze di qualche burocrata. E che io dico di no, e per questo non lo dico solo io, lo dice gran parte dell'opinione pubblica di buon senso dell'Alto Adige, sia ben chiaro. La ringrazio, grazie Alessandro Urzì, le auguro buon lavoro e vedremo come andrà a finire, perché poi è questa la giornata nella quale si decide, o quantomeno si avrà una qualche idea. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi riprenderemo il nostro giro per l'Italia e lo riprenderemo dai dintorni di Milano, dove abbiamo pescato, meglio la pescata è il Corriere della Sera, però noi abbiamo deciso di averla in onda, un'altra super preside. Vi ricordate che nei giorni scorsi abbiamo ospitato un dirigente scolastico che aveva i plessi scolastici sparsi in 3 comuni della montagna ligure con centinaia di studenti? Ebbene, ne è stata pescata un'altra. Lei ha 21 strutture sotto la sua giurisdizione con 3.000 studenti. Io mi chiedo come si possa lavorare in questo modo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: è stato rivisto al ribasso il PIL del 2015, la crescita non è stata dello 0,8% ma dello 0,7%. Renzi intanto interviene sulla manovra e fa sapere che nel 2017 sarà prorogato l'eco bonus al 65% per le ristrutturazioni. Un mese fa il terremoto, danni per circa 4 miliardi di euro, ricostruzione trasparente e senza deroghe, promette il governo. Notizia di poco fa, il Consiglio di Stato ha sospeso il concorso per il reclutamento di 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Gli esami orali dovevano iniziare lunedì 26 settembre. Dopo il no alle Olimpiadi, l'attenzione della Giunta Raggi si sposta sullo stadio della Roma e continua la ricerca dell'assessore al bilancio. Il caso di Yahoo, dopo il furto dei dati di 500 milioni di identità digitali, secondo alcuni esperti e secondo la stessa Yahoo, ci sarebbe ancora una volta la mano di una potenza straniera, forse la Russia. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e proseguiamo adesso il nostro giro per l'Italia. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, siamo andati in Liguria a raccontarvi di questo dirigente scolastico che viaggia fra 3 comuni con un grande numero di plessi scolastici, sono comuni di montagna della Liguria, quindi è tutto complicatissimo, si sposta continuamente con 1.000 problemi, deve avere anche a che fare con 3 sindaci di piccoli comuni per casi come quelli per esempio dell'emergenza maltempo, quando le scuole vanno chiuse, eccetera eccetera. Ovviamente non è un caso isolato, perché i dirigenti scolastici che devono gestire più scuole sono molti, perché si attende un concorso. Tra questi c'è Paola Bellini, la cui storia viene raccontata oggi dal Corriere della Sera e che è in linea con noi. Bellini, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, 21 plessi scolastici e 3.000 alunni, una cosa pazzesca, uno in provincia di Cremona e uno in provincia di Brescia, sono i due istituti dei quali è dirigente, no? Assolutamente sì, sono il mio istituto di assegnazione è l'Istituto Comprensivo di Pontevico, che è proprio a ridosso della provincia di Cremona, e l'istituto di Vescovato, che mi è stato assegnato in reggenza, è altrettanto a ridosso della provincia, del confine con la provincia bresciana, e quindi mi sono trovata in questa situazione, che peraltro, lo voglio dire, ho assolutamente voluto. Perché l'ha assolutamente voluto? L'ho assolutamente voluto perché quest'estate ho saputo che la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Vescovato era stata assegnata ad un altro istituto, quindi all'interno dell'Istituto Comprensivo di Vescovato, dove io ho prestato servizio per 7 anni come docente alle medie in italiano, storia e geografia, all'interno dell'istituto appunto hanno cominciato a chiamarmi, a dire: dai Paola, torna da noi, conosci bene il territorio, conosci bene i genitori, gli alunni, e insomma alla fine il cuore ha chiamato e si è fatta convincere. Ma è complicatissimo gestire una situazione di questo genere. Bisogna mantenere la mente fredda. Bisogna ricordarsi dove si va con la macchina, nel senso che un giorno sono a Pontevico, un giorno sono a Vescovato, bisogna avere molta flessibilità e soprattutto entrare immediatamente sul pezzo, perché comunque ogni istituto appartiene a un territorio e quindi ha delle peculiarità proprie. Ovviamente, però Bellini, concorderai che c'è qualcosa che non funziona. E aspettiamo il concorso nuovo per dirigenti. Ma quando arriva? Quando arriva questo benedetto concorso? Perché... il ministero ha appena ribadito che sarà fatto sicuramente entro l'inverno, e quindi ci aspettiamo i prossimi dirigenti scolastici l'anno prossimo. Ah, l'anno prossimo. Quindi comunque sì. un anno scolastico così tocca tirarlo, cioè su questo non ci sono speranze. Assolutamente no, ma lo sapevo, quindi ribadisco, sono consapevole, anzi io devo essere sincera, devo fare un esplicito ringraziamento all'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, perché mi ha accordato una fiducia simile. Insomma, questo è bello da parte sua. Senta, l'altra volta quando abbiamo ospitato questo dirigente scolastico, diciamo che forse in una situazione, direi, se vogliamo, anche più difficile della sua, no? Perché appunto, diciamo, comuni della montagna, mm-hmm. Tutto un po' complesso, dicevano, qualche ascoltatore ci scrive, per forza prende un doppio stipendio. In realtà non è così. No, in realtà non è assolutamente così. Mi hanno detto dei colleghi che sono già stati in reggenza che probabilmente mi spetteranno circa 700 euro lordi mensili, che tradotto in soldoni significa 350 euro netti al mese, che a me personalmente servono a coprire le spese di telefono e di gasolio. Certo, perché passerà il tempo al telefono, quando sta in un istituto a parlare con i docenti, eccetera, dell'altro istituto e viceversa. E poi ovviamente si sposta, insomma. Esatto. E per fortuna non ho quasi spese per i pranzi, perché non ho tempo di pranzare, e quindi sto andando a pacchetti di crack, che da questo punto di vista non incidono molto sul bilancio. Infatti, da quel punto di vista siamo a posto. Senta, e fa anche supplenze, ho capito bene? Allora, questo è capitato il mio primo anno di insediamento qua a Pontevico. La prima settimana di scuola non erano ancora stati nominati i supplenti che occorrevano, e quindi piuttosto di lasciare i miei alunni senza docenti in cattedra, sono arrivata io. Ci diceva appunto c'è questo teorico incremento di stipendio, ma quindi non c'è un rimborso spese, cioè il ministero non prevede un rimborso spese per una cosa di questo genere? No, che sappia io no. Senta, lei ha figli, tra l'altro? Sì. Sì, ho un bambino meraviglioso di 10 anni. Ma riesce a vederlo in qualche momento della giornata? Sì, riesco a vederlo, nel senso che mio figlio frequenta una scuola a tempo potenziato, quindi torna a casa intorno alle 5 del pomeriggio. Io cerco, quando posso, di essere a casa alle 5 del pomeriggio. E la cosa brutta è che mi vede spesso al telefono, in effetti. Oppure stremata. No, quello no, perché appena lo vedo mi torna la carica, quindi stremata no. Senta, suo marito la supporta, spero. Tantissimo. Io non potrei fare quello che faccio se non avessi lui. Senta, lei è in contatto con altri presi e dirigenti scolastici che sono nella stessa condizione? Nella stessa condizione no, sono in contatto con tanti altri presidi e dirigenti, perché soprattutto da quando è stato indetto l'ultimo concorso, quello che peraltro mi ha visto vincitrice appunto, si è formata una rete di supporto che oggettivamente aiuta moltissimo a sbrigare non solo le pratiche quotidiane, ma a decidere per il meglio della scuola. Sono complessivamente, lo ricordiamo, il dato è citato oggi proprio dal Corriere della Sera, sono 1233 i dirigenti scolastici che a causa di questo ritardo nel concorso appunto si devono barcamenare tra due istituti. Allora Bellini, facciamo così, è stato un piacere sentirla, io però a questo punto la devo sentire a fine anno scolastico, perché voglio capire se l'entusiasmo che sento in questo momento lo ritrovo anche a giugno, oppure se la devastazione prenderà il sopravvento. Facciamo che ci sentiamo a giugno. Ci sentiamo a giugno, molto volentieri. La ringrazio, grazie a Paola, grazie Bellini, a dirigente scolastica, e le auguro evidentemente un buon lavoro. E noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi il nostro Mario Platero, e ci risentiamo alla fine per i saluti.